siamo? Let's go! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pallone rubato, porca Valero. Si può partire in 3 contro 1. Arriva Babacar, largo c'è Teio. Il pallone per lo spagnolo. Teio dentro per Babacar. Perfetto il contropiede, perfetto. Ed è 1-3, è il Cuba, Babacar. Io credo che per me come allenatore il mio più vero obiettivo è vedere i miei giocatori divertirsi giocando a palla, pallone, esserci dominanti sia in campionato sia in Europa League. E questo purtroppo li vedo solo a tratti, che non è stato quello che questa squadra credo che riesca a fare, e gli abbiamo già dimostrato. Va via lui, il cross è buono di sinistra, Candreva! Antonio Candreva! La prima giocata della serata è decisiva. Oggi non era importante giocare bene, fare cose, era importante portare a casa il risultato. Abbiamo sofferto e non abbiamo giocato bene, dobbiamo dirlo. Certe cose bisogna rivedere, però cosa che rimane, che è più importante, che abbiamo riaperto l'Europa, e questa vittoria ci dà anche morale. Si addormenta la difesa della Roma e Kayode fa 3-3 in un minuto. Succede così, involontariamente ce la prendiamo un po' comoda e si fa un metro di meno, e quel metro lì poi, quando trovi gli avversari che non hanno nulla da perdere, che sono attaccati al pezzo e che si giocano la vita, lo paghi. Peluso subito al centro, c'è De Frel, Schrabel! Clamoroso, incredibile, autogol, regala il pareggio al Sassuolo, pazzesco. Io dico che abbiamo fatto un'ottima gara dopo un inizio difficile in cui abbiamo sbagliato un po' troppo a livello tecnico in alcune scelte che potevano essere sicuramente fatte meglio, però per il resto la squadra, in particolar modo nel secondo tempo, è cresciuta tantissimo, ha tenuto spesso i rapidi nella propria metà campo, venendo un pochino anche a dominare la gara. È Giorgio De Luca, il nostro autore, con Gianmarco Ferronati in regia, la vice fazione di redazione, che ci offrono questa spremuta di quello che è successo ieri in Europa League, una serata che ha ovviamente interessanti riflessi sulla stagione delle squadre coinvolte, la Fiorentina che gioca un'eccellente gara a Liberec, il Sassuolo, si può dire altrettanto del Sassuolo a Vienna. Per quanto riguarda le altre due, c'è molto di più da discutere. Perché? Perché l'Inter se la smazza con il Southampton grazie alle manone di Handanovic e a un gol di Candreva. Non c'è molto altro sotto questo vestito. E la Roma torna a dimostrare i suoi limiti, che sono essenzialmente difensivi, perché prendere due gol in casa dall'Austria-Vienna in 2 minuti è una cosa, credo, inaccettabile ad altissimo livello, là dove vuole essere la Roma. O mi sbaglio, Pierluigi Pardo? Beh, sicuramente è inaccettabile. L'unica giustificazione che non giustifica è che sappiamo bene che l'Europa League, ed è un errore, in qualche momento può essere vissuta come un'occasione per fare turnover, per... in questa prima fase ovviamente, poi quando si va avanti credo e spero da anni, sai, che faccio una, per quel poco il conto, cioè zero, faccio una piccola battaglia culturale perché l'Europa League abbia più risalto e più importanza in Italia nel percepito delle varie squadre, dei vari club. Beh, insomma, però secondo me non c'è nulla di compromesso. Certo, l'arbitro impietante, ovviamente, per andare con l'incanto con l'Austria Vienna, per una squadra che è seconda in classifica in Italia, che ambizioni, è abbastanza incredibile prendere due gol con la partita praticamente finita in questa maniera, è assurdo, e quindi il segnale è... E quindi è abbastanza una conferma di quanto della spia rossa che è accesa dall'inizio della stagione in casa Roma, al netto degli infortunati, perché la Roma ha anche avuto problemi di infortuni, di composizione di quella difesa. La gara di Napoli era stata una magnifica invenzione, una magnifica costruzione di Spalletti, ieri siamo tornati a vedere questi difetti. Sì, la fragilità difensiva rimane rimane tasto, il tallone, certo, rimane una caratteristica di questa Roma, rimane il punto principale da correggere. Saluto anche Fabrizio Biasin, che è responsabile delle pagine sportive di Libero, e viriamo anche... grazie a voi per la chiamata. Grazie a te, e viriamo sull'altro tema di giornata. Dicevo, sotto il vestito nerazzurro ci sono le parate di Handanovic, il gol di Icardi, parafrasando un celebre film degli anni Ottanta con una meravigliosa Candreva, sì, no, stavo pensando a Carol Alt, protagonista di quel film, e però sotto quel vestito non c'è molto altro, Fabrizio. Ci sono tre punti, che è vero, in una partita oscena sono l'unica buona notizia per l'Inter, per De Boer che diciamo raffredda un po' la tensione legata attorno alla sua panchina e mette un po' di buon umore a vista dell'impegno di Bergamo di campionato, che poi il vero crocevia della stagione in questo momento, perché l'Inter ha necessità di continuare di fare altri tre punti. Ieri abbiamo visto una partita molto brutta di sofferenza, ma in questo momento io non mi aspettavo di vedere l'Inter come il Barcellona. No, sarebbe stata una follia, perché sinceramente, Fabrizio. Se ci ricordiamo cosa è successo domenica scorsa, evidentemente questa è una squadra che ha diversi problemi, che in Europa non può schierare neanche la formazione migliore. Bisogna prendere il buono della partita di ieri, ovvero solo e soltanto i tre punti. Ragazzi, di sofferenza, dico, a parità di sofferenza vincere è meglio che perdere. Scusate il momento parisiano, c'è il traffico. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobovia. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Tutti convocati. E io vi convoco tutti, uno per uno, tutti voi che ci state ascoltando all'800240024, questo è il numero verde, messaggi WhatsApp 349-238-6666. Dopo la catalanata di Pardo, che ha detto meglio vincere che perdere per quanto riguarda l'Inter. No, è più profonda però. È più profonda. È più profonda perché il risultato, secondo me, poi alla fine ha sempre una valenza. Una sua verità, sì, no? La sua verità. Quindi la differenza tra Inter Cagliari e Inter Southampton c'è. Poi può stare nella prestazione chiaramente dei singoli. Handanovic ha fatto una partita molto importante. Certo, Pierluigi. No, ma poi in un momento difficile sai bene come bisogna invertire il trend, no? E quindi... l'inversione del trend, non dico che sia avvenuta guardando l'Inter in campo ieri sera, perché non ho notato nulla di molto meglio rispetto alla gara persa con il Cagliari, che ricordiamo era stata pesantemente condizionata comunque da un clima che riguardava Icardi e che era stato... che aveva avvolto la partita prima ancora che cominciasse. A Fabrizio Biasin invece volevo chiedere un'ultima cosa che riguarda la prospettiva per l'immediato futuro. Dicevo, una serata di Europa League che ci offre riflessi su quanto succederà. Bergamo è sempre stato un campo strano per l'Inter. Sì, più Fabrizio. Che strano, complicatissimo. Nel sì, senso complicato, che l'Inter... strano. È stato ad esempio il campo in cui, ricordo, Mourinho che in quel primo tempo disse a voi dopo un pessimo primo tempo, voi cosa avete vinto? Uno scudetto ve l'andate in segreteria, l'altro l'avete vinto senza la Juventus, e fece quella sfuriata a Bergamo. Poi è un campo complicato per tutti, recentemente ci ha perso anche Sarri che... poi ha rilasciato dichiarazioni secondo me sbagliate, ma questo è un altro discorso che faremo dopo. Bergamo è comunque un campo difficile per l'Inter. È difficile anche perché di fronte non c'è una squadra di sprovveduti, ma anzi un'Atalanta che in questo momento è in forma, e contro Gasperini anche l'Inter fa spesso fatica, per cui io credo che sarà una partita molto difficile, con un Inter che va in campo però con una formazione molto diversa rispetto a quello che abbiamo visto ieri, perché per ovvi motivi li conoscete tutti, l'Inter in campionato gioca con giocatori assolutamente differenti, con João Mario che in questo momento è imprescindibile, Banega tornerà titolare, io ieri ho visto un Mauro Icardi che in Europa non segna da 2 anni, ma si è fatto mazzo così, correndo tantissimo e dando una mano ai suoi compagni di squadra. Secondo me dal punto di vista dell'atteggiamento l'Inter ha svoltato, bisogna vedere se riescono ad apprendere quello che vuole De Boer, cioè un tipo di gioco che in questo momento forse l'Inter non si può permettere, sì, causa condizione fisica, diciamo così. Sì, è appunto far entrare nella testa dei giocatori ciò che vuole De Boer. Fino adesso non ha capito praticamente nessuno. Io ringrazio Fabrizio Biasin. Grazie a voi, ciao ciao, ciao ragazzi. Ciao. Abbiamo degli Orossi, Pierluigi. Ah, grande, maestro, come stai? Ciao Pierluigi, sto bene. Delio, stiamo parlando ovviamente di un argomento nuovo, inedito, l'Inter e i suoi problemi. L'altro giorno abbiamo parlato con Mazzarri, che ha fatto una dichiarazione del tipo: qui è tutto molto difficile, i giocatori entrano in campo con spirito dilettantistico, bisogna saper entrare nella loro testa e capire un po' quello che vogliono. La mia sensazione è che non ci sia ancora questo filo comunicativo, non parlo solo di lingua, tra De Boer e l'Inter, i giocatori dell'Inter. Fatica dare dei giudizi a 600 km di distanza. Io vedo le partite dicono che mi sembra una squadra che non ha ancora trovato un filo logico, esatto, formata da ottimi giocatori, però viene a mancare forse un senso comune che li lega, ma penso che sia anche normale, anche perché il loro allenatore mi sembra che abbia anche una filosofia molto diversa dalla nostra. Esatto, esatto. Anche perché io conosco un po', lì sono giocatori soprattutto dalle giovanili che hanno i concetti, soprattutto sono tutti uno contro uno, e penso che questo sia difficile, e puoi creare un filo comune se tu chiedi l'uno contro uno a squadra che magari praticamente non ha un filo logico in questo momento. Esattamente, è quello che si capisce in maniera chiara, Pardo. Sì, l'unica attenuante è che secondo me il livello di difficoltà è molto, nel senso che io sono d'accordo ovviamente col mister, la squadra ha potenzialità, ha tanto talento, ha secondo me anche delle enormi aree di debolezza, nel senso che secondo enormi. Per esempio, sui terzini l'Inter è, insomma, buoni giocatori tutti, però non è all'altezza del resto della squadra. C'è tanto talento, non facilissimo da organizzare, da strutturare. In più, allenatore nuovo, lingua così. Insomma, c'è una serie di elementi, secondo me, che per carità, anche qui non è che giustifichino, però che secondo me rendono l'aspetto del tempo necessario per far apprendere, per amalgamare certe idee un pochino più lungo rispetto alle altre squadre che hanno magari un compito un pochino più facile. Facendo un confronto con l'altra milanese è abbastanza evidente, no? Io penso che l'Inter abbia qualcosa in più se sommiamo proprio il talento. Se facciamo la somma del talento complessivo, credo che l'Inter abbia qualcosa in più del Milan. Io ti ho già detto che tu lo sai bene, io penso che l'Inter a livello di profondità di organico e tutto sommato di quota, sì, talento non sia molto distante né dalla Roma né dal Napoli, e questo rimane è distante, però dopo quelle tre quello rimane il mio pensiero. Però il Milan è riuscita con Montella a creare, certo, fino a questo momento un'idea di squadra un po' più logica, un po' più razionale, che si è vista fin dalle prime amichevoli, ma ha avuto anche passi. No, ma infatti, guarda, io rispetto De Boer, magari sarà un bravissimo allenatore, magari diventerà un grandissimo allenatore, viene da una squadra prestigiosa che però, come sottolineava Delio Rossi, ha un'altra filosofia. Però, volendo cambiare Mancini, quella situazione è estrema, 10 giorni dall'inizio del campionato, cioè tu chiami Prandelli o Delio Rossi o un allenatore italiano che è qui, che conosce comunque l'ambiente, la filosofia. Per fare un progetto di lungo periodo. Ma il lungo periodo non esiste, non può esistere per l'Inter, cioè non possiamo ragionare in termini di 2 anni, per Luigi, cioè l'Inter è una squadra che deve fare bene subito, con i soldi che ha speso, quindi non è che, quindi mi sembra una via complicata, mi sembra una via contorta. Delio, invece volevo andare un attimo sulla Roma, che dicevamo prima con Pierluigi. Ieri sera ha dimostrato confermato quello che è il suo difetto, che in questo momento è strutturale, e cioè una fase difensiva che non funziona bene, al di là della partita di Napoli che è stata, e l'abbiamo sottolineato tutti, un capolavoro anche tattico di Spalletti. Sì, devo dire che lui sta cercando la quadra e con giocatori che ha a disposizione, certi hanno certe caratteristiche e lui deve in un certo qual senso trovare il giusto equilibrio, e penso questo falso 4 che diventa 3 con due centrocampisti centrali, che è un 4-4-1 mascherato, poi si alza di più un terzino, per le caratteristiche dei giocatori penso che sia quello più idoneo, anche perché ti permette in un certo qual senso anche di fare delle modifiche, nel senso cioè cambiare i giocatori, perché se gioca El Shaarawy al posto di Perotti, sì. Il loro problema secondo me gli deriva dietro, perché chiaramente venendo a mancare Rudiger, venendo a mancare Vermaelen, qualche problema ce l'ha. Certo, questo l'abbiamo già sottolineato. Per me, per quanto mi riguarda, un'ultima cosa, Deglio, e riguarda Gabbiadini, giocatore che conosci bene, che hai allenato, che si trova in una situazione molto complicata a Napoli. Che idea ti sei fatto di questa situazione che si è creata a Napoli? Io lo conosco bene a Manolo. Manolo è un ragazzo eccezionale, un professionista esemplare, soprattutto un bergamasco di quelli anche tosti, quindi anche inquadrato. Lui si sente prima punta, ma la sua storia dice che fa meglio magari, esatto, giocando, esatto, sull'esterno. Esatto. E secondo me qui parte l'equivoco di fondo, anche perché poi tu vai a fare la prima punta in una squadra che fino all'anno scorso aveva Higuain. E Higuain è forse uno dei tre migliori centravanti al mondo. Quindi Milik è un surrogato, e lui secondo me come tempi di gioco fa fatica a giocare in quel ruolo. Secondo Pardo, il problema del Napoli comunque è essenzialmente difensivo. Confermi? Beh, col Besiktas sicuro. Beh, no, Besiktas, in generale. Su Gabbiadini io penso che sicuramente non è una prima punta. Non è una prima punta di tipo tradizionale, questo è evidente. È uno che ha cambiato tanti ruoli, ha giocato addirittura esterno offensivo a 4, è essenzialmente un esterno offensivo, però il problema è che lui ha la concorrenza, ce l'ha pure lì. Perché poi il Napoli ha tre attaccanti esterni come Insigne, che adesso è poi in difficoltà, ma insomma comunque è un signor giocatore, Insigne, Mertens e Callejon, quindi veramente secondo me non è ma adesso gli si chiede di fare la prima punta in pianta stabile e senza alternative, cioè adesso, il discorso dovrebbe essere gioca Gabbiadini più altri 10, se c'è la fiducia in Gabbiadini. Sì, certo. O no, Delio? Secondo me sì, anche perché in questo momento vedo che il ragazzo è anche in crisi di fiducia. Nel momento stesso che viene a mancare Milik, e io sono rimasto, quindi mi metto anche in competizione. Hanno venduto Higuain e pensavano che dovesse giocare lui. Poi hanno preso Milik, giocava Milik. Adesso viene a mancare Milik e gioca Callejon nella partita che nella testa dei giocatori più importante. E sicuramente questo può essere... si sta minando la sua fiducia, fermo restando che ripeto che però il campo dice che fa fatica a giocare in quel ruolo come lo vuole Sarri, che è anche uno che deve legare il gioco, non attaccare solo la profondità, dare i tempi, e secondo me quello crea un problema, perché paradossalmente va meglio Mertens. Sì. Oggi lui in un'intervista ha detto: se soffrissi la pressione non giocherei a Napoli. Tu che lo conosci per l'appunto molto bene, è un ragazzo in grado di caricarsi sulle spalle la pressione che in questo momento gli viene messa? Il giocatore deve dire questo, io non conosco mai un giocatore che si dimostra debole anche sì. All'interno dello spogliatoio sono tutti macio, nessuno dimostra le sue debolezze, è normale che debba dire queste cose. So che però, detto, essendo poi inquadrato, come ho detto prima, un bergamasco sicuramente è uno che ci tiene, il primo che sta soffrendo di questa situazione. Però poi di lì a dire che se puoi reggere la pressione non è di quelli che dice... cioè è anche spavaldo in quel senso, che se ne frega anche degli altri o delle critiche, invece penso che soffra molto questa situazione, soprattutto, ve l'ho detto prima, è un problema di fiducia. E la fiducia, ci sono giocatori che hanno queste motivazioni intrinseche, che non se ne fregano niente dove giocano, con chi giocano, e altri che hanno bisogno sempre della pacca sulla spalla, del sorriso dell'allenatore, del presidente che gli rivolge la parola, dei compagni di squadra che dicono che tu sei il più forte. Questo è chiarissimo. E sono il 98%. Il 98%. Grazie Delio, a presto. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Pier, chiudiamo la prima mezz'ora con Enrico da Milano, prima della borsa. Vai Enrico. Sì, ciao, vai. Ciao. Un saluto a lei, Genta e a Pardo. Ricambiamo. Allora, volevo solamente chiedere, secondo voi, visto, peccato che non c'è il mister, che l'avrei chiesto volentieri anche a lui, che differenza c'è tra la partita di ieri sera dell'Inter e quella della Juve di martedì? Sì, questa è una domanda che mi ha rivolto anche un ascoltatore. Volevo far rispondere a Pardo, infatti. Aspetta che te la pesco. Fatemi capire, mi ha scritto uno via SMS. Fenomeno del giornalismo sportivo. Grazie. Ovviamente è ironico. La Juve vince 1-0 in 10 grazie solo alle prodezze del portiere e ad un'ala ed è eroica. Idem l'Inter sotto il vestito niente, ma ci siete o ci fate? Carlo D'Aosta. No, ma scusa, però Carlo, io ribadisco, il risultato ha sempre una validità, sempre un senso che va oltre i tre punti, ha sempre, se uno vince una partita è perché comunque è stato migliore dell'avversario, questo vale nel calcio sempre e comunque, quindi io sono d'accordo da questo punto di vista. Secondo me ieri è chiaramente un Inter ancora fragile, ancora bruttina, però tanto a portare a casa tre punti e non era facile nel clima psicologico che c'era, quindi posso anche essere d'accordo su questo. Sulla Juve a Lione io poi ribadisco quello che ho detto martedì, già di mercoledì, cioè secondo me la Juve a Lione non ha giocato così male come si dice in giro, ha dominato per larghi tratti del primo tempo, poi all'inizio del secondo tempo ha avuto sicuramente una fase di calo, ha concesso delle palle gol a Lione, ha sofferto un po' ma senza esagerare, in 10 contro 11. È chiaro che il Lione non è più quello degli scudetti consecutivi di qualche anno fa, però è una buona squadra, andare a vincere in casa del Lione secondo me non... Non prendiamoci in giro, cioè, esistono delle differenze sostanziali tra la partita della Juventus a Lione, che pure non è stata il massimo della vita, cioè non è stato il Barcellona che ha distrutto il City, però esistono delle differenze evidenti che capirebbe anche un bambino dell'asilo tra la vittoria della Juventus che vale tre punti a Lione e la vittoria dell'Inter di sera con Southampton che vale pure tre punti. Questo mi sembra quasi intuitivo. Ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. Tutti convocati. Io non gliela faccio più, ragazzi. Mi fate fumare una sigaretta. Dai, mezza sigaretta. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Rieccoci! Convocati. Se fosse qui a Roberto Renga vorrei chiedere qual è la Roma, se quella vista a Napoli o quella che è tornata a dimostrare elementi di fragilità ieri. C'è chi insiste sull'argomento, ed è in questo caso Mari, un ascoltatore che scrive: l'anno scorso l'Inter vinceva giocando male ed era culo, adesso la Juve vince giocando male e sono prove di carattere, a voi sembra coerente? A parte il fatto che io non ho mai detto che l'Inter aveva solo culo l'anno scorso quando vinceva 1-0 sempre ed era in testa al campionato, non l'ho mai detto, c'è stata anche quella componente ma non era solo quella componente, così come adesso io dico che la Juventus è una squadra che ha quantomeno continuità di risultati, leggere classifica di campionato e Champions League, cosa che alla Roma così come a Napoli manca. Roberto Renga qui. Intanto buongiorno. Buongiorno. No, voglio dire che anch'io rispetto profondamente i risultati penso che non arrivino mai per caso, ci può essere un episodio ma non possono essere infiniti episodi. Quando l'Inter vinceva meritava alla fine di vincere, ma sì. Poi ha smesso di vincere e meritava di perdere. La Juventus vince sempre, sia l'anno scorso che quest'anno, mi sembra che la differenza sia sostanziale. Per quanto riguarda la Roma mi chiedo anche quale sia il Napoli, per esempio. Perché tutti, no, ci siamo esaltati ovviamente nel vedere la partita tra Napoli e Roma, e io personalmente ho fatto moltissimi complimenti a Spalletti per come l'aveva giocato. Li abbiamo fatti tutti, cioè sì. È stato il grande protagonista di quella partita. Assolutamente, mentre Sarri è rimasto se stesso. Certo che la sconfitta poi subita in Champions dal Napoli, e qualche dubbio già prima della partita di ieri sera mi aveva fatto venire. Dico, che cos'era? Il Napoli che era venuto meno o la Roma che era stata eccezionale? Io, per quanto riguarda ieri, ho sentito dire e ho letto, no, aggettivi sul conto della Roma: la Roma è vanesia, la Roma era sazia. Ma fosse stata così, non sarebbe andata sul 3-1. Secondo me, nella rimonta dell'Austria-Vienna ci sono dei motivi tattici. Così avevo fatto i complimenti a Spalletti, questa volta gliene faccio meno. Perché sul 3-1 giustamente ci sta che... Ma c'è un problema strutturale, Roberto? Ma no, non c'è un problema strutturale. No, non in assoluto, perché se tu lì davanti avessi avuto Strootman e De Rossi, per esempio, anziché Paredes e Gerson, e forse i palloni non sarebbero arrivati in area in quella maniera. Se non ci fosse stato Emerson Palmieri, un mancino a destra che non sa marcare, e forse i palloni non sarebbero entrati. Certo è che, facevo il conto prima aspettandovi, la Roma ha preso 18 gol in 13 partite ufficiali, e questo fa pensare che in effetti il problema sia strutturale, perché altrimenti, no, dice, è possibile che prendi tutti questi gol. Ma ieri secondo me ci sono stati anche motivi tattici, perché Gerson e Paredes sono di carta velina, e soprattutto nel secondo tempo Gerson non l'ha presa più. Voi andate a vedere i gol e voi vedrete che Paredes non è mai intervenuto in area. Voi vedrete che Nainggolan, per esempio, anziché stare al limite, no, dove poteva essere utile, stava all'interno dell'area, cioè a fare mucchio. Cioè, ci sono stati errori contingenti. Questi errori fanno parte della storia della Roma, ma della Roma di quest'anno e anche di quella dell'anno scorso e anche quella degli anni precedenti, se vogliamo dirla sempre, e perché dovuti al fatto che i difensori cambiano in continuazione, eccetera. Ma poi ci sono stati degli errori tipici di ieri sera. Sì, quindi ha ragione, facendo la somma Spalletti, che dice: quando vinciamo diventiamo troppo faciloni, troppo superficiali, eccetera, eccetera, ci distraiamo, fosse così, eccetera. Fosse così, però non sarebbero andati sul 3-1. Non sarebbero andati sul 3-1, qui c'è un altro elemento da considerare, che giro anche a Pardo. Ieri sera abbiamo rivisto il Shaarawy, che sta facendo molta panchina. E guarda, un po' per parallelismo mi viene in mente il Gabbiadini dell'anno scorso. Cioè, quando lo usi, questo è pronto, entra e fa doppietta e gioca un'eccellente partita. Sì, beh, Shaarawy bene ed è, mi sembra, una delle notizie migliori della serata di ieri. In generale io credo che un po' di sottovalutazione inconscia, inconsapevole, cioè quello che è successo ieri sera mi sembra un qualcosa di banale, ma che non va sottovalutato, perché comunque la Roma ha perso 2 punti e li ha persi malissimo. Credo che ci sia stato veramente un po' di pressappochismo in una competizione dove, secondo me, si fatica soprattutto nel girone a tenere alta la tensione per 90 minuti, quindi questa è un'attenuante, poi ripeto, non giustifica. Se dovesse succedere col Palermo domenica sera, secondo me è più grave, ma non perché sia più importante Roma-Palermo di Roma-Austria-Vienna, lo è anche, ma perché in generale la percezione e il tipo di formula fanno sì che 2 punti persi col Palermo in campionato siano molto più pesanti di 2 punti persi con l'Austria-Vienna. Poi vedremo, poi magari a Roma esce, allora a questo punto questo discorso sarebbe completamente non valido. Cioè, io trovo delle attenuanti. Detto questo, poi se pensi che hai preso 3 gol in casa contro una squadra di medio livello europeo, capisci che questa squadra che deve crescere, ma certo. I limiti sono anche limiti, non me ne voglia nessuno, singoli. La coperta è abbastanza corta, sì, come in questo Renga, momento. Come diceva Renga, se non è una squadra che può permettersi un grandissimo turnover, soprattutto in certi ruoli, perché sennò finisce per... Ma sì, perché saresti stato costretto a mettere Strootman, no? Che però sembra che sia tornato veramente dall'Olanda con le stampelle, con questo mal di schiena feroce, e quindi non è stato rischiato. A quel punto non ci avevi nessun altro. Consideriamo anche che c'era Totti, che al 90esimo, Totti non gli puoi chiedere ovviamente di fare l'incontrista. Chi c'era che poteva respingere l'attacco degli indiani? Non c'era nessuno. Secondo me questi sono elementi importanti. Poi dopo è chiaro che la Roma è da sempre subisce un sacco di gol, ma quando voi cambiate regolarmente i difensori ogni anno, ci sta che questi difensori non facciano blocco. Nella Juventus lo fanno perché sono sempre quelli. Sono sempre quelli, bravi, sono lì da molto tempo, bravi, quelli della Roma, alcuni sono pure infortunati. La Roma ha fatto fatto tanto trading, troppo trading, per essere una squadra che riesce a consolidare la propria forza e che riesce a essere vincente. Ha fatto anche i soldi, Sabatini secondo me rimane uno straordinario talent scout e numeri alla mano, ha contribuito alla crescita del progetto Roma negli ultimi anni. Secondo me c'è poco da discutere su questo. Il campionato lo vince una squadra sola, ma la continuità che sta avendo al vertice la Roma è una continuità importante e nasce anche attraverso alcune cessioni che sono state assolutamente molto positive. Sì. Però è chiaro che poi se vuoi vincere, ha ragione, è ovvio che poi ti serve una continuità, ti serve uno zoccolo duro di grandi giocatori che sono quelli che hanno la Juve. E lì ecco la differenza tra la Juventus e le altre, che non sta nell'1-0 e nei tre punti, eccetera, eccetera. Grazie Roberto Renga, alla prossima. Grazie a voi. Ci sentiamo subito dopo il traffico. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Tutti convocati. Ma Bonaventura, eccolo il suo cross con il destro, non esce Consigli, va Paletta più in alto di tutti, ma non ci arriva, da fuori Locatelli, che gol! Il primo in Serie A, Manuel Locatelli, fantastico! E conta il 3-3, sinistro all'incrocio! Attenzione, Niang è partito, c'è la Padula che taglia, Niang! Ha raddoppiato il Milan, dopo 45 secondi nella ripresa, Niang segna il terzo gol del suo campionato ed è 2-0! Si sta parlando troppo delle cose belle, fa piacere, d'autostima, ma la partita domani è particolarmente pericolosa per cadere nel tranello. Io non ci casco, non ci dobbiamo cascare come ambiente, non ci dobbiamo cascare come calciatori, come staff tecnico, quindi piedi per terra, sapere che è una partita che ce la siamo conquistati, se c'è questa risonanza è per merito dei calciatori. Mette dentro ancora Higuain! E vabbè, ma così è illegale veramente! Così è veramente illegale! Illegale! C'è Dybala che parte col sinistro! 1-1! Dybala! Ci pensa lui! Secondo gol consecutivo in campionato! Consecutivo in assoluto. Domani è sempre Milan-Juventus, quindi le partite Milan-Juventus, Inter-Juventus, Roma-Juventus, Napoli, sono tutte sempre equilibrate, ma soprattutto Milan-Juventus. Noi siamo andati a Milano con l'Inter, eravamo nettamente favoriti e siamo usciti tendendoci parecchio del nostro con una bella legnata addosso. Domani troveremo una squadra che ha grande entusiasmo. Ragazzi, inutile finta di nulla, stiamo contando le ore che si separano da Milan-Juventus. Per il Milan può essere, non so se l'esame di maturità, quello di laurea no, di sicuro, o l'esame di terza media, però comunque è una partita importante per misurare ciò che vale il Milan adesso. Pierpardo, abbiamo in linea due grandi sportivi, uno juventino e l'altro rossonero. Uno è Antonio Rossi che gioca in casa, è milanista. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. E l'altro è un amico di Sua Maestà Madonna, Gigi Mastrangelo. Di questa storia abbiamo già parlato a lungo, però. Del tuo video mai avvenuto con Madonna. Dove ciao, la vedrai Antonio? Fammi salutare Antonio. Ti faccio salutare Antonio, che però speri di battere domani sera, ah, sportivamente sì. Parlando. Diciamo che la squadra da battere è la Juve, quindi loro hanno, diciamo, un'occasione importante per misurarsi con una grande, con la vecchia signora che ormai è giovanita tanto, ma da anni domina. Quindi sì. È un'occasione importante per il Milan. Sì, sono passati i tempi, sono cambiati i tempi in cui la Juventus andava invece a Milano con la paura addosso. E con la quasi certezza di prendere. Sì, secondo me ci sarà ancora la paura a domani sera addosso, perché comunque la paura è importante. Bisogna sempre aver paura di un avversario, bisogna sempre temere tutti, sì. Tutti quanti. Sì, anche perché, come ha detto l'Inter, si è arrivati con l'attenzione in più. Si è usciti da San Siro con una legnata. Antonio, che dici? Dico che Allegri ci deve qualcosa, noi del Milan, quindi insomma, se non ci massacra forse è buono. Noi come milanisti, insomma, la paura ce l'abbiamo sempre, come tifosi, perché una volta gioca benissimo, la volta dopo è come se non si trovassero. Però diciamo che hai detto molto bene, è un esame più di maturità che di laurea, visto la giovane età dei nostri giocatori. E secondo me hanno voglia di dimostrare che valgono tanto, da Locatelli, insomma, in poi. Quindi, insomma, confido in una bella partita. Poi è bello rivedere anche San Siro pieno, insomma, si pensa che sia tutto esaurito. Quindi questo è un entusiasmo che fa sicuramente bene. Poi se c'è anche un ottimo risultato, l'importante è vedere il bel gioco. E credo che Montella in questo periodo stia facendo molto bene. Pardo capisce esattamente, no, gli umori di chi è tifoso, cioè Gigi Mastrangelo che va a San Siro abbastanza tranquillo, Antonio Rossi dice speriamo, Allegri ci deve qualcosa, beh non so se debba qualcosa al Milan, però dice speriamo che non ci massacrino. Sì, ma sai, però è comunque una partita, anche per il Milan è una partita nella quale c'è una componente di adrenalina molto forte. Per il Milan può essere, se dovesse andare bene, la partita della legittimazione vera e propria, perché insomma il Milan è cresciuto tanto, è arrivato al secondo posto in classifica, l'ha fatto attraverso una serie di piccoli mattoni, uno dopo l'altro, in maniera anche un po' confusa, anche in maniera un po' casuale, penso alla vittoria contro il Sassuolo, dove comunque il Milan al netto degli errori arbitrali è stato però molto bravo nell'approfittarne, quindi questo va riconosciuto, il discorso che facevamo prima sul risultato vale anche per quello. E alla Juve credo che possa essere utile l'esperienza di Inter-Juve, perché al di là dell'aspetto della identità geografica del luogo dove si giocherà la partita di domani sera, che è lo stesso dove hanno perso qui l'unica partita in campionato, ma c'è una componente abbastanza simile. Certo. La Juve è favorita, ma la Juve è favorita in Italia 38 volte all'anno, quindi è un tipo di condizione abbastanza abituale. Penso che la squadra di Allegri sia abituata a pensare così. Il Milan si è preparato sicuramente meglio, perché ha avuto tutta una settimana libera, la Juve ha avuto la Champions, però insomma io penso che comunque la squadra di Allegri sia favorita. Sì. E penso che un pareggio alla fine sarebbe bravo. Allora chiudiamo con un pronosticone a tre. Tu dici X, Pardo? No, io dico vince la Juve di un gol. Vince la Juve di un gol. 1-0, sì. Gigi Mastrangelo cosa dice? Ma io dico 2-1. Juve. 2 è ovvio. 2-1 Juve. Sta chiaro, sei mica scaramantico. E Antonio Rossi cosa dice? No, io 1-0 di Rapina. 1-0 di Rapina rossonera. Esatto, che merita la Juve, però vince il Milan. Cioè, merita la Juve, gioca una grande partita e poi tac, di Rapina, esatto, e tutti migliori, a casa. Le sì, migliori. Le più belle, sono d'accordo con te, Antonio Rossi, le vittorie che fanno godere di più i tifosi. Ringrazio tutti, Gigi Mastrangelo, Antonio Rossi, ovviamente Pierluigi Pardo, grazie, Antonio Domenica. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, GR, poi torniamo insieme, dove abbiamo un sacco di altri argomenti, torneremo sul calcio, il basket con l'Eurolega, il campionato, il moto mondiale con le prove bagnate in Australia, e con voi ovviamente. 800 24 00 24, resta il numero verde. Tutti convocati, siamo al top ragazzi, siamo al top. Il segnale orario vi è offerto da tecnologie logistiche di magazzino Modul Block, avanti anni luce. E l'appuntamento con il mio amico Marione Boni era fissato già da ieri. Ciao Mario. ciao Carletto, buongiorno. Buongiorno, per parlare di basket e non solo, anzi io vorrei iniziare dal non solo, se mi permetti, sai già cosa ti sto per chiedere. Sì, io vada. Con i cardi o contro? No, io sono con i cardi, però io ti dico di ieri, se avessimo perso 3-1 direi buona sconfitta, abbiamo rischiato la goleada, invece abbiamo vinto 1-0, questo è il mio stato d'animo. Quindi? Quindi, che devo dire, Inter fortunata, speriamo di trovare il bel gioco, cosa che per adesso non c'è. Non io dicevo bel prima, gioco, io, dicevo prima tu, io dicevo prima, guarda, tu ti ricordi quel film dei nostri tempi Sotto il vestito niente, no? Sì. Caro Latt e compagnia. Io ieri l'ho detto prima, lo ripeto, Sotto il vestito nero-azzurro c'è stato il gol di Candreva e le parate di Handanovic, il resto non l'ho visto. Sì, malissimo, ieri male, una squadra contratta, non correva, è una squadra che non corre e c'era una sola squadra, quella inglese ieri, e l'unica cosa positiva è il gol, però ecco, a questo punto non vorrei che si sottovalutasse quello che abbiamo fatto ieri, cioè nel senso che la squadra l'ho vista proprio male, quindi al di là del risultato bisogna fare qualcosa. Senti Mario, invece l'altro giorno si parlava di Buffon, no? Due papere, poi quella partitissima, poi quello sfogo di rabbia, poi c'è stato chi ha detto ma forse è il caso di pensare a cominciare a dare i guantoni della nazionale a Donnarumma, eccetera. E si discuteva, ma quando uno... Cioè, innanzitutto che il grande campione ha grande anche grande autostima, grande amor proprio, altrimenti non sarebbe così, è un grande ego. Io dico, quando capisci che è il momento di smettere? Lo capisci fisicamente? Guarda, bella domanda, perché anch'io me la sono posto tante volte. Io ho sempre pensato che bisogna lasciare il profumo che la puzza invece della puzza. Quindi ecco, è la grande difficoltà di capire questi grandi giocatori. Adesso voglio accomunare Buffon con Totti, no? Due grandi campioni, e che è il momento forse di pensare a altri campionati, a altri divertimenti. Buffon è stato un grande giocatore, un grande campione, un grande portiere. Forse non è così grande, anche se gioca una squadra quale la Juve. Non è facile dire il momento in cui capisci che non sei più a quel livello. Ecco, un passo un attimino prima che te lo facciano notare gli altri. Ecco, questo sarebbe il momento. Sì, intanto un ascoltatore mi corregge dicendomi che non era Carol Alt, ma René Simonsen. Tra René Simonsen. Ex moglie di John Taylor, dei Duran Duran, la protagonista del, però attenzione, del numero uno della prima puntata di Sotto Vestito Niente. Mentre, se lo ricordo male, ma amico mio che vedo nella fotina con il cappello da cowboy, se correggimi se sbaglio, nel numero 2 c'era Carol Alt. Vabbè, passiamo da Carol Alt alla tripla che ha dato la vittoria a Milano sul campo da Rusafka in Eurolega. Milano che ha cominciato fortissimo da una parte e dall'altra. Magvan, grande partita, ma un'impresa vera. È una Milano che può vedere in questa Eurolega, che a me tra l'altro piace moltissimo, se ti posso dire, così strutturata come un campionato vero, anche se è una spremuta di sangue, perché giochi alla fine 84 partite, è stato calcolato, quindi praticamente lo stesso numero delle partite che si giocano in NBA. È una Milano che può pensare a qualcosa di importante già? Ma guarda, io all'inizio ero un po' scettico, perché non, per esempio, Hickman l'anno scorso, Fenerbahce è grande squadra, però non aveva un ruolo così da protagonista, quindi volevo vedere Hickman in che condizione era. Devo dire, uno straordinario Hickman di questa stagione, ma non, magari non proprio ieri, e volevo vedere come Repesa riusciva a giustare così tanti elementi. Devo dire bravo a Repesa e bravo alla società che ha firmato un giocatore come Hickman, come Masvan, che sta facendo un inizio di stagione straordinario, e a riuscire a ogni volta a trovare vari protagonisti. Chiaro, non è facile per un giocatore, Pascolo, una volta gioca, l'altra volta è ne, abbassa, a volte c'è, a volte non c'è. Però ecco, io direi che Repesa sta trovando un buon equilibrio tra i suoi giocatori. E Milano mi ha stufato. Mi ha stupito. La squadra turca non è sicuramente una squadra straordinaria, però vincere due partite contro Tel Aviv e in Turchia è un segnale che Milano può lasciare il segno, un segno profondo in questa Eurolega. Sì, può lasciare un segno profondo in questa Eurolega, anche perché in Eurolega non fai strada se non hai un centrone, e quest'anno Milano si è procurata il centrone, che è Radulica. Sì, Radulica, ma anche sì, ha grande atletismo, perché anche McLean è un giocatore, diverso, molto elettrico. Molto elettrico, quindi è un Milano completa, e devo dire bravo Repesa che riesce a gestire tutto il suo organico. Sì, tu hai usato prima la parola stufando, rischiamo di stufarci in campionato, perché non vedo il campionato di di basket molto diverso da quello del calcio. Abbiamo una vincitrice quasi scritta, salvo sorpresissime. Sì, Milano poi, ripeto, con l'organico così lungo, con la potenza economica che ha, riesce a far riposare i suoi uomini. Tu hai prima accennato alle 82 partite. Ecco, in campionato vediamo altri protagonisti che non sono quelli di Eurolega. Questa è una forza straordinaria che fa di Milano l'assoluta, ancora più della Juventus in campionato, sì, per quanto riguarda, sì, il basket. Sì, sì, sì. Grazie Marione, alla prossima. A te, Carletto, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, in bocca al lupo. Paride, buongiorno, come sta? Magari io spero bene, nonostante sia caduta la linea. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dica. Buongiorno. Complimenti. Grazie. Anche da me per la vostra trasmissione. Fortunatamente intervengo dopo questa vostra dissertazione sul basket. Io sono un grandissimo tifoso di basket di Bergamo, però sono anche tifoso interista. Una cosa che non riesco a capire nella disamina della squadra è legata al discorso su De Boer e sulla sua difficoltà con la lingua. Lo dico perché vediamo tutti, per esempio nel basket in Serie A, ma anche in Serie A2, dove gli allenatori parlano normalmente inglese con la loro squadra. Sì, sì. Se il nostro calcio deve essere un calcio internazionale, non vedo perché i nostri giocatori debbano non essere all'altezza per una questione di lingua, perché lì il nostro allenatore parla inglese. Sì. Capisco per le interviste, sì, ma per allenare la squadra mi sembra una cosa. Ma anche sulle interviste si è detto, perché l'altro giorno sentivo Garessa dire: ma con questo italiano stentato le interviste sarebbe meglio le facessi in inglese, forse sarebbe più chiaro. Nel basket, come sappiamo ormai, la stragrande maggioranza degli organici delle grandi squadre è formata da giocatori americani o comunque di madrelingua straniera. E per chiudere mi torna in mente Hollanda, che non fa il giocatore di basket né di calcio, ma lei sa benissimo chi è, che l'altro giorno ha detto che anche i giocatori un po' dovrebbero darsi una svegliata, un po' dovrebbero evolvere, un po' dovrebbero così cominciare a capire come gira il mondo e magari imparare qualche lingua e cominciare loro stessi a girare il mondo. Quello che posso dire è che comunque i problemi dell'Inter non sono solo legati alla lingua, all'italiano stentato di De Boer. Mourinho arrivò in Italia conoscendo già perfettamente l'italiano, ma questa è un'altra storia. Però abbiamo altri esempi, ad esempio abbiamo sentito l'altro giorno Mazzarri, che sta facendo comunque molto bene, che l'inglese ancora non lo padroneggia benissimo. Conte, che se qualcuno dice rischiava la panchina e sarebbe stata una follia, ed è anche, il problema è arrivare dentro la testa dei giocatori. Il nocciolo del problema, secondo me, sta non tanto in queste difficoltà di comunicazione per quanto riguarda l'Inter, ma sta nel fatto che De Boer è arrivato 10 giorni prima dell'inizio della stagione e subito ha voluto imporre il suo calcio, che sarà anche bellissimo, sarà anche composto da idee geniali, un giorno vedremo magari qualcosa di strabiliante, però non puoi fare la rivoluzione in un giorno. In maniera più saggia, io come ho detto molte volte, avessero fatto una chiamata a Cesarone Prandelli degli Orossi, che è stato nostro ospite prima, a un allenatore di questo tipo che conosce comunque il campionato italiano, perché De Boer non deve soltanto imparare a padroneggiare la lingua italiana, ma anche il calcio e l'ambiente del calcio italiano. Le cose sarebbero state parecchio più semplici. Questa è la mia idea. Non so se è anche l'idea di Paride, che sta bene, che io credo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È caduta la linea, ma le avevo chiesto se stava bene, tutto a posto. Sì, sì, sì, tutto bene. Tutto bene. Poi, se ci ascolta, se ha la possibilità di ascoltare la vostra trasmissione, è sempre, voglio dire, si sta per forza bene, perché comunque alla fine si chiacchiera di cose piacevoli, no? Alla fine, non di problemi. Almeno, sì, parliamo di sport, parliamo di, certo, di problemi che non sono certo tali in valore assoluto, nonostante sono problemi ben più gravi. Guardi, su questo possiamo fare un elenco che terrebbe occupate le frequenze di Radio 24 fino a domani mattina, all'ora di Alessandro Milan. Dica. No, io, a parte i complimenti a te, a Pardo e tutto lo staff, quello che noto spesso in generale, ma non è il caso vostro, però in generale per quanto riguarda le testate giornalistiche, gli addetti ai lavori, si parla sempre dopo il risultato, cioè è facile giudicare e criticare solamente alla luce di quello che è il risultato del campo. Però se andiamo a vedere per esempio facciamo il caso di Gabbiadini, no? Gabbiadini mercoledì sera è entrato, ha segnato un calcio di rigore in un momento difficilissimo dal punto di vista certamente psicologico, e poi ha segnato un gol spettacolare in rovesciata in fuorigioco, è stato annullato, sì. No, in fuorigioco, ma questo è da valutare perché era tenuto in gioco, c'è stato il tocco del difensore del Besiktas. Comunque sono quelle classiche situazioni da valutare, però voglio dire, c'è stata una protesta. Se l'arbitro avesse convalidato quel gol, ieri si sarebbe parlato di Gabbiadini che risorge, Gabbiadini stupendo, Gabbiadini di qua e Gabbiadini di là. Questa è la verità. E avrebbe, perché due gol li ha fatti Gabbiadini ieri. Due gol li ha fatti, ripeto, pare si fidi, il secondo era in fuorigioco nonostante il tocco del difensore, perché era in fuorigioco, così come era in fuorigioco anche il gol che ha condannato il Napoli alla sconfitta, e mi viene da rispondere, lei ha ragione da vendere, però se mio nonno aveva le ruote era un tram, perché alla fine quello conta, no? Si valuta sulla base del risultato, si valuta sulla base della prestazione complessiva, si valuta anche sulla base delle scelte di Sarri di tenere fuori Gabbiadini, che è una bocciatura, mi sembra che tra i due non ci sia. Tutta questa confidenza sportiva, tutto questo feeling, tutta questa empatia, come amava dire Leonardo quando faceva l'allenatore, tra i due. E poi si valuta quello che è il prodotto, e il prodotto mi sembra quello di un Napoli che continua a subire davvero troppi gol e che ha molte crepe in quel disegno che sembrava perfetto dell'anno scorso di Sarri. Attenzione, consiglio a tutti gli amanti dello sport, almeno a quelli che ancora non lo fanno erroneamente, di includere nella mazzetta dei quotidiani del mattino, del sabato e della domenica, il Sole 24 Ore, perché c'è una grande novità che è stata presentata, tra l'altro ieri abbiamo avuto qui in studio meravigliosi ospiti in un convegno molto importante, Sport and Business. Marco Beninazzo correrà queste pagine del sabato e della domenica. Ciao Marco. Che succede? Ciao Carlo. Beh, finalmente insomma si riuscirà a parlare in maniera stabile, speriamo, di quella che è l'industria sportiva in Italia, che non è chiaramente solo l'industria del calcio, ma è tutto quell'insieme di settori produttivi che lavorano con lo sport e per lo sport, ma è anche tutta la galassia dello sport, definiamo amatoriale, dalle maratone alle nuove forme di pratiche sportive, che creano non solo un movimento da apprezzare sotto il profilo sociale, ma anche chiaramente con dei risvolti economici e finanziari importanti, e che sono non solo appunto italiani, ma sempre più globali e internazionali. L'idea è quella di provare a dare un contributo al dibattito pubblico per far crescere questa cultura dello sport e dell'industria sportiva, cultura che per esempio è clamorosamente mancata nel dibattito attorno a Roma 2024, certo, con tutto quello che ne è conseguito e con tutti i danni che questo creerà nei prossimi anni in un percorso dello sport italiano che comunque, come ho scritto stamattina, è visto quello che è emerso dall'eccellente dibattito di tanti manager e ospiti che abbiamo avuto ieri, non intende fermarsi, quindi si sta già lavorando alla Ryder Cup, a Cortina 2021, ai mondiali di pallavolo del 2018 e a tante altre piccole e grandi manifestazioni che devono riportare a livello europeo, a livello, certo, mondiale, la centralità dello sport italiano. Certo, quindi tutto ciò che è connesso allo sport e ovviamente al mondo degli affari, cose che si intrecciano, come sottolineavi giustamente tu, sia a livello amatoriale, perché ad esempio la maratona è qualcosa di che è praticata da centinaia di migliaia di italiani, e questo produce un indotto sia di alto livello, sia di strutture, sia di impianti, sia di progetti. Tutto questo lo troveremo e lo troverete sul Sole 24 Ore due volte alla settimana, Sport and Business, in questa nuova sezione ogni sabato e ogni domenica. se volete, poi Marco Benignazzo è spesso nostro ospite, siamo in sinergia, se c'è qualcosa che non vi va lamentatevi con lui, va bene? Va benissimo, grazie per lo sport. Ciao, ciao a tutti. Ciao Marco. Allora, sarà anche un weekend di motori, ma mentre nel Moto Mondiale il titolo è già stato assegnato la settimana scorsa, Marc Marquez adesso si guarda a chi arriverà secondo, deve ancora essere sancito, anche se c'è sono pesanti sospetti sul biondino Nico Rosberg, sull'imbattibile Mercedes. Lì si corre alle mani negli Stati Uniti, quindi ancora nulla è successo. Sentiamo però Rosberg, a proposito di prove ovviamente per quanto riguarda la pista, sentiamo Nico Rosberg. Beh, è stato un bel anno finora, però non conta per tanto perché è giusto un pezzo adesso in mezzo all'anno, quello che conta è la fine, e però no, mi sono trovato bene, ho avuto dei bei gran premi, specialmente recente, che veramente è stato bello riuscire così, vincere queste belle gare anche, e però poi basta, adesso sono qua a Austin e voglio vincere questa qua che ci starebbe. Questo lo scopriamo domenica sera ore 21 italiane, mentre domenica mattina ci svegliamo con il Moto Mondiale in Australia. Devo essere Roberto Ungaro, ciao. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Ciao. Pioveva di rotto sul circuito australiano questa mattina. Non dimentichiamo che lì è praticamente fine primavera, quindi a stagioni invertite, quindi ce lo si poteva anche aspettare. Cos'è successo? Inizio con grande problema perché c'erano solo 10 gradi, molta pioggia, pista allagata. Valentino è 6 anni che lo dice alla Dorna di spostarlo a marzo, questo appuntamento sarebbe troppo vicino alla Formula 1, l'organizzatore è lo stesso e quindi teme per l'affluenza in pista, però sarebbe tutta un'altra gara. Pioggia protagonista, Michelin ha portato la gomma super soft da bagnato, quella che causò problemi a Brno, ma là c'erano 20 gradi, l'asfalto si andava via via asciugando, e invece qui erano una pozza enorme. Così nella prima sessione del mattino Cracchiolo, l'inglese, che ovviamente abitando all'isola di Man all'acqua è abituato, ha fatto il miglior tempo. Petrucci secondo, che ha dimenticato la brutta caduta che fece qui a febbraio quando si ruppe la mano e ebbe molti problemi. Poi Miller, altro idolo locale, Marquez quarto, quinto Dovizioso. In realtà Vale aveva girato forte, aveva fatto secondo, però la Michelin ha detto non più di 10 giri con questa gomma super soft perché vogliamo stare in sicurezza. Sì. E i 10 giri erano compresi l'entrata e l'uscita. Lui ha sbagliato i calcoli, ne ha fatto uno in più, quindi retrocesso, gli hanno annullato i tempi e è finito ventesimo. Incredibile, perfino il compagno di squadra Lorenzo ha detto che hanno sbagliato a togliergli quei tempi. Poi hanno ripreso nel pomeriggio, ma è lì Barberà, c'è stata una wild card, Mike Jones davanti in secondo posto, Tito Rabat, Petrucci quarto, ma molti non hanno preso parte addirittura, sì, e l'hanno interrotta. Non è indicativa. Domani si dice che probabilmente non pioverà, se dovesse piovere sarà un bel casino, perché avrebbero girato solo sull'acqua, e quindi domenica è un grosso punto di domanda per la gara se fosse asciutta, capisci? Sì. Comunque la polemica è quella, è troppo in là nel calendario questa gara, Michelin ancora sotto accusa perché questa gomma non regge, in realtà i piloti dicono che ha fatto la prima sessione di prove, la gomma era integra, sarebbe andata avanti, si può fare la gara, ma Michelin vuole stare in sicurezza. Questi sono gli argomenti, sarà tutto da vedere, insomma. Sarà tutto da vedere domenica mattina alle 7 il via, se non ricordo male, della MotoGP, sì, e sarà tutto da vedere anche l'esito finale della sfida del duello per il secondo posto, che non è poi così tanto platonico, certo lo è, certo vale l'adagio secondo cui del secondo alla fine non si ricorda più nessuno, però può essere indicativo nella sfida e sarà molto interessante perché Valentino Rossi, io credo, voglia davvero arrivare davanti a Lorenzo in quella classifica. Grazie. Sono 14 punti ci sono, quindi 14. È ancora apertissima. Grazie Roberto, ci vediamo lunedì. A te un saluto. Ciao. E noi salutiamo anche voi ragazzi, Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzone in redazione. Ci risentiamo con Giovanni Capuano domenica in Tutti i Convocati Weekend dalle 17 alle 19 e poi lunedì si ricomincia la rumba, la giostra di Tutti i Convocati ogni giorno alle 14. Ciao! Pigel rosso, devi pigel stop, sennò il video va avanti 4 ore. Dai!